dove lavori, se vivi ancora in centro. Chissà, chissà, chissà quante cose che non so. Se fumi ad occhi chiusi, se russi come sempre. Chissà, chissà, chissà, chissà se stai ridendo. Io ho preso ferie col passato, ma il tuo ricordo resta. Il frigo nella testa conserva gli attimi. Ho il tuo profumo in tasca, le parolacce in bocca. Sembrava bello davvero. Ma cosa me ne frega dei tuoi occhi grandi, se poi non mi guardi nemmeno. Se tutte quelle volte che ti ho qui davanti, sai, mi sembra di stare da solo. Chissà se ti innamori di un altro deficiente. Chissà, chissà, chissà le cose che non so. Chissà se togli i freni, se passi con il rosso. Chissà, chissà, chissà cosa nascondi adesso. Io taglio i ponti col passato, ma il tuo ricordo resta. Ti giuro un'altra volta, sento quei battiti. Ti cerco pure in tasca, sei parolacce in bocca. Sembrava bello davvero, ma cosa me ne frega dei tuoi occhi grandi, se poi non mi guardi nemmeno. Se tutte quelle volte che ti ho qui davanti, sai, mi sembra di stare da solo. E far l'amore ormai è solo una scusa, e per non scordarmi mai come si fa. Ma il cuore lo lascia domani, dai, ridammi le ali che volo. Dietro ai respiri di mille paure, fingermi salvo tra le mie armature. Quello che frega alla fine sono due dettagli. Me, te, come se avessi paura del buio. Accendo una luce per stare al sicuro, per stare al sicuro da te. Ma cosa me ne frega dei tuoi occhi grandi, se poi non mi guardi nemmeno. Se tutte quelle volte che ti ho qui davanti, mi sembra di stare da solo. E far l'amore ormai è solo una scusa, e per non scordarmi mai come si fa. Ma il cuore lo lascia domani, dai, ridammi le ali che volo. Ma il cuore lo lascia domani, stanotte la passo con te.